della sua potenza che può esprimere. Tutto io, ho venito, prendi. Aspetta, vieni. Capo, dai. Oh, scusate che mi devo allontanare un attimino. Riprendo fra un po'. Riprendi, vieni. Via positivo, fra. Vai, vedi. Franco, 995, con l'amplificata. Tu sei Santiago Stretto, la radio si sente che è bassa. Va bene, uguale, però la radio è la tua, cioè la tonalità della voce è la tua. Quella non la cambio, non la posso cambiare, anche se volessi non la posso cambiare, ovvero. Per cui, evidentemente la differenza si nota, ma è normale, no? È normale. Poca potenza è poco avere, per così dire, di modulazione, ma comunque interessante se farsi ascoltare, poi per il resto non è che mi preoccupa più di tanto. Vai, vieni. Ehi, a capo, dai, sta riprendendo un altro amico e ancora non ho capito bene chi è, no, stiamo facendo ping pong. Ok, no, ha chiesto di riposarsi un attimino. Franco rientra subito adesso, l'altro è da Giovanni da Pratamona, zona Pratamona, e ha chiesto di riposarsi un attimino e poi già rientrerà sicuramente, almeno per il finalino rientrerà. Vai, vieni. Ehi, a capo. Al computer mi sto facendo un CD. Ma io ero al computer fino a poc'anzi, fino a un quarto d'ora, 20 minuti fa, ero al computer da stamattina, se puoi immaginare. Da stamattina ero al computer, prima in uno, poi nell'altro, perché ne ho più di uno, per cui siccome uno ha un problema di ricezione, nel senso che se lo metto parlato è troppo basso, allora avevo indossato le cuffie per poter sentire quello che dicevo, però ho notato che probabilmente è un problema di presa di ricezione, dai, perché metto la radio, cioè metto l'amplificatore del computer sempre, e quello non amplifica. Poi ho voluto controllare se l'amplificatore funzionasse, l'ho provato nell'altro computer e va, che è una meraviglia, bomba. Questo invece evidentemente c'è un contatto un pochino scadente nell'ingresso dove si attacca la cuffia, tutto lì, ho benissimo. Vabbè, saranno le sabbative che saranno passate, o il cavo che sta mezzo rompendo. Ma no, non te lo so dire, è probabile che c'è qualche falso contatto, cioè falso contatto, uno scarso contatto casomai, uno scarso contatto, anche perché lo spinotto, il jack, quando lo infili dentro la presa delle cuffie, si gioca un pochino, mentre invece deve stare bello fisso per avere un contatto efficiente. Forse ho usato troppo le cuffie in quel computer lì, poi vedremo se si può riparare, va bene, se no, no non è un problema, lo terrò così com'è, va bene lo stesso, anche se è basso, però già sento quello che mi interessa sapere. Tutto lì, avanti. Sicuramente è stato sforzato un po', ma quelli sono quelle radicine che c'hanno all'interno, un pochino gliela so piegare, se ce la fai arrivare un piccolo pezzo di te. E infatti l'ho pensato anch'io quello, cioè quella specie di lamellino che c'è, che si vede così, però non avevo una punta sottile, anzi stavo pensando di farmi dare un ago magari da mia moglie, o uno spillo, qualcosa del genere, per cercare di entrarlo, per piegarlo un pochino, in modo che possa entrare un pochino più preciso, probabilmente proprio quello, ma già lo farò, poi ce l'ho pazienza, non è un problema, tanto già sono attrezzato, ne ho più di uno, poi ho tablet e ho tutto, insomma, ecco, per cui ho da tutte le parti, posso andare sempre in corso, in rete, non c'è problema, anche se io non vado mai su Facebook perché non mi interessano le chiacchiere di Giaramedi di Facebook, vado magari su WhatsApp, vado su YouTube, queste cose qui sì, leggo il giornale, lo sport, tutto quanto, però lo Facebook non lo frequento, ecco, non lo traffico Facebook. Sì, no, io entro e scarico solo musica, adesso, infatti non riesco a masterizzare adesso, però c'è un problema qua di mio, l'altro con tutti. Ok, infatti anch'io oggi stavo ascoltando un CD, stavo ascoltando ed era basso, ed era un CD di canzoni statalesi, ed era per quello, fatto come mai così basso, e poi ho potuto verificare che, cioè, un CD che è stato scaricato nel computer, una pennetta più che altro, è stato scaricato nel computer, e poi ho pensato, ma come mai esce così basso, forse non funzionava bene la penna, invece no, la penna funziona meraviglia, perché nell'altro va più che bene. Evidentemente è proprio quello il difetto della cuffia di quel computer lì, che non fa bene contatto. È come quando una radio ha la batteria mezzo scarica, no? Che si abbassa di volume, così è quello. No, giù, aspetta, io ho capito. Stavo sbagliando il lettore. Adesso già sta andando. Ok, meglio così. Va bene, comunque no. Non c'è problema. Ormai siamo pieni di elettronica, anche in questi ultimi giorni che c'è stato il mio compleanno, ho ricevuto un telefonino nuovo. Non è che quello che avevo prima era vecchio, però era abbastanza nuovo anche quello, ma adesso ne ho uno ancora migliore, sai com'è. E quando te le fanno i regali li devi accettare, no? Tanto più che sono regali di famiglia, non è che me li fanno da fuori, me li fanno in famiglia stesso i regali. Sono sempre benefici. È certo che sì, tanto. E poi anche l'altro funziona alla grande, non... Ma... Passamano, io faccio sempre passamano. Quello l'ho passato a mia moglie, che è nuovissimo lo stesso, e niente di particolare, è un nuovissimo anche quello, guarda, ce l'ho se non un anno, non di più. Ma adesso ne uno ancora migliore, tra l'altro anche più costoso. Ma non è che ho dato lo scarto a mia moglie, è perché lei stessa mi ha detto, se vuoi nuovo, ti do il nuovo. No, dammi quello che mi va benissimo. Tanto ce l'hai, e infatti nella sedia, si può immaginare, ce l'ha il telefono, ce l'ha nel tablet, ce l'ha in un altro cosa ancora, come si dice, è più il telefono di casa, quello da stazione fissa, si può immaginare, ha voglia di comunicare. Vabbè, quello sì, anche io quella sono soldato, diciamo. Ormai siamo tutti ben attrezzati. L'unica cosa che ci manca è la pace nel mondo. Con questa guerra non dicavamo bene, vabbè, comunque speriamo bene, povera gente, però maledetti siano i politici, tutti quelli che vogliono avere il potere. Anche. E allora, che cosa le vuoi augurare con la gente? Sono dei criminali, ammazzando tutti i tantissimi giorni persone innocenti, persone, ragazzi, che non hanno fatto male mai a nessuno, eppure lì non possono uscire di casa che vengono bombardati, o fucilati, o violentati quando si tratta di donne o ragazze, eccetera, eccetera. Una vergogna, ragazzi, che razza di mondo criminale che stiamo vivendo. Molta gente ha pensieri strani in testa. Pensieri strani, pensieri malvagi, che è proprio più malvagi di così, della criminalità che ammazza le persone, più di quello poi non credo che uno possa superare in malvagità quando ammazza le persone si è arrivato al massimo. Non ce ne sono, non c'è selvaggità più forte di quella che quando uno ammazza le persone. È una vergogna veramente, guarda, a giorno d'oggi, ragazzi, nell'era del 2022 ancora oggi si parla, fanno parlare le bombe, fanno parlare i missili, eccetera, eccetera. Vergognoso, aspetta, giù, la guerra non la stanno facendo finire, perché già lo sai, no? C'è un giro di soldi dietro, tutti vendono, tutti fanno, sempre interessi. Sì, infatti sempre interessi, il potere, la mania del potere, certo che è così, questo sì, è vero, lo sappiamo. E poi tra l'altro questa gente sono ultra miliardari, non è possibile, perché si stima ad esempio il suo fatto patrimonio, si stima intorno ai 200 miliardi, perlomeno così ho sentito dalle varie trasmissioni della televisione, della radio. Ma cosa vuoi fare, se vuoi sapere? Va a fare la guerra alla povera gente che magari erano tranquilli, in pace, che non li stava cercando, va a invadere e a massacrare migliaia e migliaia di persone. No, non è possibile la vita. Uno che possiede 200 miliardi in soldi di sua proprietà, ma è una vergogna veramente, ma cosa vuoi? Tutto il mondo suo vuole che sia. Ma chiaramente Berlusconi vuole essere Gesù Cristo, chi sarà la testigliosa? La politica, ragazzi, è la maledizione dell'umanità, la politica è la maledizione dell'umanità, non c'è niente da fare, purtroppo è così. Capitina, loro vivono tranquillamente, tutti protetti da 300 uomini tutti attorno per non toccare nessuno, e loro mandano le bombe, ragazzi, ad ammazzare la povera gente, la gente che vive dal lavoro, la gente che è sacrificata da quando è nata. No, è vergognoso, guarda, è veramente vergognoso. Guarda che anche di lì non ho visto bene. No, ma la colpa è di entrambi, non è solamente da una parte, la colpa è sempre, diciamo che macellai sono tutti e due, sia da una parte che dall'altra, perché lui ha incominciato e ha attaccato, quell'altro che chiede continuamente armi per la difesa, ma che differenza fa dalle armi che ammazzano alle armi che difendono? Non mi sembra che ci sia differenza, perché anche quelli che difendono stanno ammazzando altre persone, per cui sono delinquenti tutti e due, uno più delinquente dell'altro, perciò la politica è l'umanità, è la maledizione dell'umanità, secondo me. Vabbè, io sì, Però quello è un paese piccolo, quindi bisogna approfittare, ma... Lo so, appunto, è quello che dico io. Senta, sei ultramiliardario e cosa vuoi, si può sapere, cosa vuoi ottenere dagli altri, ma lascia vivere anche gli altri, perché tu non puoi essere il padrone del mondo intero, Cassettina. Capisco che magari anche loro nel 2014 magari anche loro hanno avuto la stessa idea di attaccare la Russia, e cosa vuoi fare? Però ripeto, questo ha ragione il Papa, la pace nel mondo, però a quanto sembra la pace a questa gente non gli interessa, e non gli interessa assolutamente. Io oggi non interessa, no, certo c'è sempre i soldi. Sì, ci sono sempre i soldi, certo, ci sono sempre gli interessi, è ovvio che ci sono gli interessi, dappertutto, e intanto lui con la sua azione così, da disonesto, da delinquente, sta mettendo in crisi il mondo, perché sta mettendo in crisi il mondo, soprattutto l'Europa, per non parlare poi in particolare dell'Italia. Ce l'abbiamo visto che subito, appena che hanno cominciato la guerra, hanno cominciato a lievitare tutti i prezzi, iniziando dal gas, dall'elettricità, dal carburante e da tutti i viveri che servono tutti i giorni per mangiare. E per cui vedi bene che questo delinquente non ha fatto altro che rovinare il mondo. Al momento sta continuando a rovinarlo. Guarda, alcuni cosi noi risorse ne abbiamo, non che sono tutto a ferro, ci costavano troppo estrarre il gas perché ce n'è, il mar, come viene il nome, comunque, che confina con loro ce ne abbiamo, ma ci costava troppo, là non l'hanno preso dalla Russia. Sì, diciamo che l'Italia ha sempre comprato dalla Russia, come sta comprando tutta l'Europa dalla Russia, sta comprando, per cui, però loro adesso cosa succede? Tu fai questo ragionamento, no? Stanno mettendo delle sanzioni alla Russia, però cosa succede? Le sanzioni mi metti, vabbè, allora tu mi metti le sanzioni, io vendo di meno, però aumento i prezzi di quello che vendo, per cui chi ci perde è sempre l'Europa, sempre l'Occidente che ci perde, non la va. Il discorso è sempre quello, lui incassa ugualmente gli stessi soldi, dando meno prodotto, però incassando gli stessi soldi, probabilmente anche anche di più di quanto incassava prima, che prendeva molto di più. Ecco qual è la differenza. Questa la gente non se l'ha messo in testa ancora e continuano a mandare armi per poter continuare a difendersi, d'accordo, si devono difendere, però pensiamo anche che difendendosi non fai altro che ammazzare anche altre persone. Ecco qual è il discorso. Dunque è un punto di partenza senza fine o benissimo. Beh, certo. Da una parte e fuori dall'altra, che le armi e cose, ma non sono delle baghe, e tutti di quanti gliele stanno mandando, ma non ho capito che fine fanno. E appunto, si chiede bene, è una cosa che non... è come il cane che si morde la coda, la mattina si goza, niente di diverso. Comunque, facciano come credono, è interessante che non vengano a rompere le scatole a noi in Italia, che noi siamo pacifici, siamo tranquilli, senza nessuna volontà di fare guerra. Però, a quanto sembra, anche i nostri politici, anche loro... diciamo, in un certo senso per me hanno colpe anche loro, perché se tu continui a mandare le armi a questa gente, cosa stai facendo? Stai mandando le armi per ammazzare altre persone, è tutto lì. Ecco come la penso io. Poi il fatto che si debbano difendere, questo è anche giusto, però quelle armi che loro stanno ricevendo per difendersi, le stanno utilizzando per ammazzare anche altre persone, perché sono non solamente armi di difesa, perché difesa vuol dire morte, come quelli che attaccano, come le armi che attaccano. Ma non lo so. Va bene, avanti Claudio. Come sono? Ciao Benito, buonasera, ben sentito. Buonasera, ben sentito tutto prima perché la rota è sempre bassa. Non è voglia cambiare il microfono adesso. Perché il segnale ce l'hai, Il segnale ce l'hai, solo la radio è bassa. Dovrei cambiare microfono, Benito. Giovanni, sei rientrato, vabbè, dai. Col segnale che ho visto pensavo che fosse Claudio, ma invece no, mi sono sbagliato, va bene, non è un problema. È così, Beni, è quello il discorso, la gente deve essere un pochino più caritatevole e meno selvaggia, per cui le guerre bisogna lasciare stare da una parte, perché nemmeno gli animali più ce ne fanno guerre, e voi che la faccia la guerra all'umanità, no, non è accettabile veramente, non è accettabile, al giorno d'oggi non è accettabile, vai Beni. No, chi non vuole seguire sono sempre quelli che comandano di più di noi. Beh, giù vi lascio, che qua mi è diventato lo schermo bianco e voglio vedere bene cosa è successo. Ciao a tutti, correti per me. Ok, ciao Benino, grazie della chiacchieratina, dai, ci sentiamo presto, almeno spero. Sono per salutare Benito. Ciao Benito, buon proseguimento di serata, alle prossime, Benito, ciao. Vediamo un po' se rientra qualcuno. Gianfranco, ci sei all'ascolto? Gianfranco, non lo prende. Natalino, ci sei? No, non c'è nemmeno Natalino, vabbè, pazienza, dai. Claudio, ci sei? Claudio non c'è nemmeno, vabbè, pazienza, così è Giovanni, cosa vuoi che ti dica, non so cosa dirti, vabbè dai, comunque, sì, vengo su, Giovanni mi stanno chiamando a casa, devo lasciarti, dai, scusami ma devo lasciartemi, forse è arrivato qualche mio parente, io sono al piano superiore e loro sono giù, adesso devo scendere, dai, ti saluto e ti ringrazio per le quattro chiacchiere, ciao Giovanni, alle prossime, dai, è un piacere sempre ascoltarti, ciao Giovanni. Ricambio Giulio, alla prossima, dai, buon proseguimento di serata, ciao. Ciao Giovanni, dai, mi hanno chiamato per la seconda volta, sto scendendo, vabbè, ciao Giovanni di nuovo, alle prossime. Attenzione, dici. Chi è avanti? 中東北アフリカ向けの 11.625MHz アフリカ向けの 15.130MHz 以上の周波数でお伝えします。 こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。